in primo piano. Buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli, ben trovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che, come potete immaginare, oggi sono veramente dominati, soprattutto per quanto riguarda le prime pagine, da due temi. Da una parte il giubileo, che naturalmente anche qui a Radio 24 seguiremo per tutta la giornata, la prima giornata del giubileo, e poi il risultato delle amministrative in Francia. E cominciamo quindi dal Messaggero, il quotidiano romano per eccellenza, che titola Sfida giubileo, Roma si blinda. Interessante innanzitutto l'inserto di 32 pagine allegato al Messaggero, dove ci sono interventi di tantissime persone, dallo storico Franco Cardini alla storica Lucetta Scaraffia, ma anche il Papa Francesco visto da Francesco Totti, da Gigi Proietti, da Daniele Lucchetti, che è il regista del film uscito qualche giorno fa nelle sale, lo chiamavano Francesco. E poi dalla prima pagina, e poi che continuano invece a pagina 10, quindi fuori dallo speciale, due interventi, uno di un rabbino, Riccardo Di Segni, e uno di un imam, Yahya Pallavicini. Il titolo del primo pezzo, quel nuovo inizio che lega la giustizia alle nostre religioni. Il titolo del secondo è un'occasione di riflessione anche per i musulmani. Con il Messaggero questo speciale di 32 pagine, l'Avvenire titola Si aprono le porte. Anche qui tantissimi approfondimenti, ma due le fotonotizie dell'Avvenire. Una è quella che riguarda la Francia, con una foto di Marine Le Pen che subito molto sorridente, quindi subito probabilmente scattata all'annuncio dei risultati. Francia, monito per l'Europa, questo è il titolo. E poi un'altra fotonotizia di un altro risultato elettorale che trovate anche sugli altri giornali, non con questa evidenza, quello del Venezuela. Venezuela prova di democrazia dopo 17 anni, infatti sconfitto il cosiddetto chavismo, cioè la politica e i politici di centrosinistra, seguaci in particolare dell'ex presidente Chavez, e si afferma invece il centrodestra. Anche in questo caso uno speciale con Avvenire, il titolo ore 9:30, giubileo al via e tempo di misericordia, anche in questo caso con tantissimi approfondimenti sia sui giubilei del passato, a partire da quello del 1300, e al significato particolare che Papa Francesco dà a questo, che è il giubileo della misericordia. Il Corriere della Sera, anche in questo caso monopolizzato dal giubileo, il titolo è un virgolettato dal segretario di Stato Parolin che dice la paura non fermerà il giubileo. In questo caso la fotonotizia è dalla prima della Scala, ieri Sant'Ambrogio, tradizionalmente la serata del santo patrono di Milano in cui si apre la stagione lirica del teatro La Scala. Si è aperta, come avrete sicuramente sentito, con la Giovanna d'Arco, un'opera considerata fino a ieri, potremmo dire così, minore di Giuseppe Verdi, che in realtà è andato tutto bene, anche se Milano è stata definita una città blindata, e quindi l'articolo di Gian Giacomo Schiavi, l'applauso liberatorio nella città blindata. Ma poi alle pagine 12, 13, 15 un commento a pagina 35 sul Corriere, come su moltissimi altri giornali, approfondimenti sia sulla critica musicale dell'opera, sia sull'aspetto mondano, e anche con alcuni risvolti politici, perché c'erano alcuni politici, altri mancavano, quindi anche un po' di retroscena. La prima della Scala è sempre un avvenimento sì musicale, lirico, ma anche appunto mondano. Anche il Corriere della Sera ha uno speciale oggi dedicato al giubileo. Sentire misericordia, questa parola cambia tutto, è il meglio di che noi possiamo sentire, cambia il mondo, un po' di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. E questo è un virgolettato tratto dal primo Angelus di Papa Francesco, quello del 17 marzo del 2013. La Repubblica, anche in questo caso sempre giubileo, leggermente diverso il titolo, il giubileo dei due papi, perché sapete che è naturalmente il giubileo di Papa Francesco, ma anche di Papa Ratzinger, il Papa emerito. Sicurezza, Roma blindata, anche in questo caso la fotonotizia è dedicata alla Giovanna d'Arco, con questo accenno al fatto che la prima rappresentazione di quest'opera, seguiranno repliche appunto nei prossimi giorni, ha avuto 11 minuti di applausi. Anche qui tantissimi commenti, e anche uno di Natalia Aspesi, il genio e la normalità, che si incentra in particolare sulla figura del direttore d'orchestra Riccardo Chailly, e con il fatto che sia stata la scenografia e la coreografia sia stata, a differenza magari che in alcune stagioni passate, esente da eccessi. Anche in questo caso naturalmente la notizia, i commenti sulla vittoria del Front Nazionale in Francia, trionfo Le Pen, con due analisi, una di Bernardo Valli, l'ultima chiamata per la democrazia, e una di Marc Lazar, lo scenario, lo strano argine dei due rivali, perché sapete che tra una settimana si voterà per il ballottaggio e potrebbe succedere questa bizzarra cosa, ma in politica la politica, qualcuno dice diceva, è l'arte del possibile. Il centrosinistra potrebbe, centrosinistra e centrodestra potrebbero mettersi d'accordo per votare per lo stesso candidato in modo da in qualche modo diminuire la possibilità che vincano i candidati del Front National. La stampa titola proprio sulla questione francese: Francia, il ciclone Le Pen spaventa l'Europa, e persino Renzi ieri ha proprio detto fermiamola, se l'Unione Europea non cambia farà il gioco dei populisti. E qui due le fotonotizie: una, da una parte uno scatto a Roma, dove ci sono dove da oggi 3.500 tra poliziotti e militari vigileranno su tutti gli obiettivi sensibili, e poi una foto invece sempre con un poliziotto in primo piano, in questo caso mentre fa una perquisizione, una vera e propria perquisizione, parte del piano di sicurezza di uno degli ospiti in smoking che stava per entrare alla Scala. E vi segnalo il buongiorno di Massimo Gramellini, perché mentre Roma è tutta concentrata sul giubileo, in Parlamento invece si sono presi una lunga vacanza. È un fatto che persino Gramellini dice è molto facile da criticare, però insomma facciamolo lo stesso, perché è veramente grossa questa cosa di questo gigantesco ponte che i nostri parlamentari si sono concessi. E appunto Massimo Gramellini premette: il corsivo di oggi è un gol a porta vuota, ma la colpa è di chi quella porta non la chiude mai. Nella Roma che accoglie i pellegrini del giubileo con ingorghi festosi per trovare silenzio e spazi vuoti, bisogna andare a Montecitorio, un'oasi di pace nel cuore della capitale. Le banche scricchiolano, l'ISI si incombe, Salvini si crede Marine Le Pen che si crede Napoleone, ma i deputati della Repubblica non accettano di darla vinta agli strateghi del terrore, cambiando le proprie abitudini. Con sprezzo del pericolo, ma non del ridicolo, hanno confermato e addirittura ampliato l'usanza di mettersi in ferie dal 4 al 14 dicembre. Il ponte è tornato in auge nei giorni scorsi, non si riferisce dunque allo stretto, ma alla lunghissima vacanza che consentirà agli onorevoli di testare l'efficienza delle strutture turistiche italiane e di acquisire informazioni di prima mano su quelle estere. E continua ancora questo corsivo intitolato Camera Vista Monti. Anche La Stampa ha uno speciale dedicato al giubileo, l'anno santo di Papa Francesco. In questo caso il virgolettato che compare in copertina è tratto da un'omelia del Papa nella chiesa di Sant'Anna in Vaticano, pronunciata 4 giorni dopo la sua elezione. Il virgolettato è questo: il messaggio di Gesù è la misericordia, per me, lo dico umilmente, è il messaggio più forte del Signore. Ma ci lasciamo un attimo e ci ritroviamo subito dopo per le altre prime pagine dei quotidiani. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei quotidiani dominati dai titoli sul giubileo, e allora veniamo al Sole 24 Ore, che ha un titolo invece diverso, anche se ci sono numerosi gli approfondimenti sul giubileo con la cronaca di Carlo Marroni e le analisi di Nunzio Galantino, Gianfranco Ravasi e Remo Bodei, ma appunto il titolo principale è dedicato invece al petrolio, perché ieri il petrolio è sceso sotto i $38, è un minimo da 7 anni, e questo ha frenato quello che sembrava già un mini rally in borsa. Forti ribassi quindi per tutti i titoli petroliferi, e Piazza Affari la borsa di Milano ha comunque chiuso in salita, anche se solo dello 0,07%. L'analisi in questo caso di Davide Tabarelli: il gioco dell'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita, soprattutto c'è l'Arabia Saudita probabilmente dietro a questo mantenimento del prezzo del petrolio così basso, perché infatti sono queste fluttuazioni del prezzo del barile sono una conseguenza del vertice OPEC della settimana scorsa. Ma poi del Sole 24 Ore parleremo ancora con Mauro Meazza tra poco, e quindi passiamo invece al giornale. Il giornale si concentra sui risultati del voto amministrativo in Francia, in particolare analizzando l'età di chi ha votato per il Fronte Nazionale, e quindi il titolo: la rivoluzione dei giovani, la destra della Le Pen è il primo partito tra i ragazzi sotto i 25 anni, quelli che rifiutano il buonismo. Libero invece ha un titolo che si concentra sulla questione delle banche salvate, sapete il cosiddetto bail-in, che vuol dire quando le banche devono salvarsi da sole, il bail-out invece è quando interviene in genere lo Stato per salvarle, e il titolo Ecco le banche sicure, quindi un approfondimento di Libero. Dopo il caso degli obbligazionisti gabbati e in vista del debutto del bail-in, pubblichiamo la classifica degli istituti in base ai test della BCE. Sotto osservazione i due popolari del Nord-Est, la Cassa di Risparmio di Cesena e 6 BCC. L'Unità invece titola anche lei sul giubileo, con un titolo Roma Caput Mundi. Papa Francesco apre il giubileo, Italia crocevia di politica e diplomazia internazionale. Questo perché? Anche perché l'Unità ospita in prima pagina un articolo di Paolo Gentiloni, il nostro ministro degli esteri, che si rifà al vertice che si terrà a fine gennaio 2016 a Roma. È proprio un vertice internazionale, scrive Paolo Gentiloni. La scelta di tenere a Roma a fine gennaio 2016 la prossima riunione ministeriale dello Small Group, il gruppo ristretto che definisce le strategie della coalizione, è significativa. In quell'occasione si discuterà di come rafforzare le operazioni contro i jihadisti, tenendo peraltro a mente la lezione che abbiamo imparato in questi anni in Medio Oriente, e cioè che gli interventi militari, anche quando necessari, non sono mai risolutivi se non inseriti in una strategia politica di lungo corso. Un po' appunto la posizione, come sappiamo, del governo Renzi, cioè che per ora non si partecipa a quelle che Matteo Renzi ha definito in un'intervista al Corriere domenica le bombe degli altri, ma si cerca prima di mettere a punto un piano per un intervento di medio-lungo periodo. Sono parole, purtroppo, perché praticamente non si capisce come invece frenare il giorno dopo giorno della crescita e del rafforzamento del terrorismo islamico. Passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che a sua volta ha un'inchiesta, quindi un titolo che può avere solo il Fatto Quotidiano, è un'inchiesta fatta dai giornalisti, in particolare da Marco Lillo, si intitola I segreti del potere, questa è la prima parte. Il titolo molto forte, tutti raccomandati, così hanno fatto carriera Tronca and Company. Nell'inchiesta di Reggio Calabria, battezzata Breakfast, le intercettazioni di Isabella Votino, collaboratrice storica di Roberto Maroni, svelano gli intrighi della politica e degli affari attorno al ponte sullo stretto. I patti indicibili tra Berlusconi e la Lega, le manovre che coinvolgono istituzioni, mondo dell'industria e dello sport. Una ragnatela di sottogoverno e casta che il Fatto è in grado di ricostruire, cominciando dalle nomine del Ministero dell'Interno e dei prefetti, tra i quali il commissario del Comune di Roma, appunto Tronca. E trovate tutto questo alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano di oggi. Il Manifesto, come sempre, un titolo immaginifico, il titolo è Eau de Vichy, naturalmente il riferimento è alla Repubblica di Vichy, la foto è quella di Marine Le Pen, e poi un accenno ai risultati. Il Front National di Marine Le Pen vince in 6 regioni su 13, ci ricorda il Manifesto, totalizzando 6 milioni di voti, pari al 28,4% su base nazionale. Questo dato impressionante sull'astensionismo, che sfiora il 50%. In prima pagina anche la sconfitta chavista in Venezuela e il commento di Maduro, che ha detto abbiamo perso por ora, cioè per adesso si spera, quindi già il partito si sta ricostruendo e si prepara a essere all'opposizione e poi naturalmente alla rivincita alle prossime elezioni politiche. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'intervista a Gianni Letta, ex primo ministro, che sapete ora vive a Parigi perché ha trovato un incarico universitario lì, ha lasciato il Parlamento, ha dato le dimissioni dal Parlamento italiano. L'opinione di Letta è: lasciate che Le Pen governi, soltanto così la rabbia sbollirà. Un altro approfondimento del Corriere della Sera è sulle prossime elezioni amministrative che ci saranno a Milano, ma anche a Roma e anche a Napoli e in altre città per eleggere il sindaco, saranno in primavera. E la grande questione di questi giorni è se il commissario dell'Expo Sala si candiderà o no. Pare che alla fine sì, si candiderà, ci saranno comunque le primarie, perché un'altra candidata forte è quasi certo sarà l'attuale vice sindaco Salza. un altro approfondimento molto interessante, un'altra intervista interessante sempre dal Corriere della Sera, è fatta da Viviana Mazza al figlio di Erdogan, che sapete, a proposito di ISIS e terrorismo, è stato accusato in particolare dalla Russia di essere, di commerciare in petrolio con l'ISIS. E quindi il titolo dell'intervista: l'autodifesa del giovane Erdogan, costruisco uffici, non vendo petrolio. Accusato dal Cremlino di esportare il greggio dell'ISIS, il secondogenito che studia a Bologna dice: facciamo navi cisterne, ma non le gestiamo noi. Un ultimo approfondimento prima poi di collegarci, come dicevamo, con Mauro Meazza, che ci racconterà qualcosa di più del Sole di oggi. Un approfondimento di Giuseppe Remuzzi a pagina 31 del Corriere, molto attuale, visto che si avvicinano le festività del Natale, mangeremo tutti tanto e più del solito. E allora il titolo: il poco grasso che fa vivere di più, la conferma degli ultimi studi degli esperti, se si cura la forma fisica si può rimanere al di sopra del peso considerato ideale. E vediamo se Mauro è già con noi. Non ancora, ci fa segno Peter Bescapè. Allora ancora un'altra intervista, oggi i giornali sono pieni di interviste sulle questioni più diverse. Dalla Repubblica un'intervista a Martin Schulz, il presidente del Parlamento europeo, forse lo ricorderete, era quello che era stato anni fa chiamato da Berlusconi capò, suscitando una marea di polemiche. Ora appunto è presidente, è un parlamentare socialista tedesco ed è presidente del Parlamento europeo. Anche lui commenta il risultato della Francia e dice: se non fermiamo i nazionalismi, tra 10 anni l'Unione potrebbe sparire. Un approfondimento di Omero Cha, invece proprio inviato in Venezuela, sulle elezioni in Venezuela. Il titolo: rivoluzione finita, l'opposizione batte Maduro e archivia Chavez. Come vi dicevo, vedremo appunto quali saranno, come reagirà l'opposizione ora che i 2/3 del Parlamento sono finiti appunto alla centrodestra. Il presidente riconosce la sconfitta e si prepara a un'opposizione. Visto che a Parigi, oltre che tutto quello che è successo nei giorni scorsi, c'è anche in svolgimento il vertice sul clima, e abbiamo visto anche sui giornali di domenica molti approfondimenti sulle polemiche anche tra scienziati. Un approfondimento di Elena Dusi: clima, la svolta del 2015, il mondo inquina meno. E ora però è veramente il momento di Mauro. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulia, sono molto felice di trovarti, ma quel debosciato di Milan, no? Quindi si è preso addirittura un giorno di vacanza. Si è preso un immacolato, è immacolato oggi, si è preso un'immacolata concezione. Mi sembra inaudito, comunque ne parlerò sicuramente con l'ufficio del personale. Invece parlerò bene di te, perché sto leggendo su Sole 24 Ore, tra le molte notizie che abbiamo oggi, anche questo tuo ritratto di Crizia, che è scomparsa proprio ieri, e proprio vedo che c'è un lungo articolo di Giulia Crivelli, quindi sono anche un po' emozionato di questo dialogo tra noi due. Ti voglio dire, non dimenticarti, non fare come quel debosciato di Alessandro, non dimenticarti la legge di stabilità. No, certo. Mi sembrava che tu la stessi un po' trascurando. Ma io lasciavo tutto a te, perché sei il più titolato a parlarne. Ti ringrazio molto. Comunque ti voglio dire che oggi, su Sole 24 Ore, parliamo anche della legge di stabilità. Come sai, è un disegno di legge, se ne sta discutendo, sta prendendo pian piano la sua fisionomia. Allora, non ci sarebbe più la sanatoria per le delibere tardive dei comuni sull'IMU e la TASI. Insomma, ti ricordi che c'erano comuni che non hanno ancora, comuni che hanno deliberato in ritardo? Ecco, si pensava di fare una sorta di sanatoria e invece forse adesso non la si farà più. Vedremo. Intanto, se questa sanatoria non ci sarà, si torna alle vecchie aliquote, alle vecchie percentuali. Insomma, l'abituale pasticcio, però. Scadenza sempre 16 dicembre, però. La scadenza 16 dicembre, okay. Ecco, ricordati, mi raccomando, sì, che devi pagare, naturalmente. Non è altro, devi pagare il 16 dicembre, tutti dobbiamo pagare, perché l'abolizione di cui si sta discutendo riguarda il 2016. Certo. Oh, invece ti voglio segnalare oggi con il Sole 24 Ore il vocabolario. Sai che stiamo facendo questa importante iniziativa martedì e mercoledì, i vocabolari. Quest'oggi il vocabolario parla di economia e di energia, anche quindi con un aspetto anche importante per l'ambiente, e il petrolio, di cui hai già riferito nei nostri titoli. E poi dimmi del patent box, ti prego, il patent box, questo sconosciuto che è nelle vostre pagine di norme e tributi e resta un po' un mistero. Mi interessa molto il patent box, ma possiamo parlarne serenamente e anche a lungo. In realtà ti volevo intrattenere più sui bilanci 2016, perché sai che c'è una importante modifica oggi su Sole 24 Ore, parliamo ad esempio del trattamento dei derivati al fair value. Io non so se questa cosa ti emoziona così come il patent box, però ti assicuro che per i nostri amici professionisti del fisco e dei bilanci sono delle novità, direi, abbastanza emozionanti. I derivati, quindi, ti dirò, a me spaventano più che emozionare, perciò leggerò con attenzione. No, non devo spaventarmi. No, non devi essere spaventata, devi leggere, come anche consiglio sempre ad Alessandro, religiosamente, e del resto nel giorno di apertura del giubileo, quale altro avverbio se no, religiosamente le pagine di norme e tributi, anche perché oggi è martedì, cara Giulia. Quindi certo, abbiamo... Le pagine del condominio. Del condominio. Il condominio, e anche lì ci occupiamo di IMU e TASI, quella dovuta appunto dal condominio. Invito gli amministratori di condominio, che non sono pochi, come sai, a leggere attentamente, in questo caso, anche se fa parte sempre la sezione norme e tributi, quindi anche un po' religiosamente, le pagine di norme e tributi. Oggi sono molte altre cose di cui ti vorrei parlare, però mi limito a darti due suggestioni, come si dice con un anglismo. Ti piace anglismo, Giulia? So che tu tanto sei persona che apprezza anche queste ricercatezze linguistiche. Da una parte una notizia da dita incrociate, cioè, forse porta bene, ma vediamo. Elettronica, balzo delle vendite, scriviamo nelle pagine di Imprese e Territori. Gli acquisti stanno andando bene nei primi mesi, questi 9 mesi del 2015, abbiamo un più 3%. E Natale aiuterà, certo. Tutti ci aspettiamo che sia così, questo è il motivo delle dita incrociate. E poi ti segnalo anche invece una interessante sentenza che trovi su norme e tributi, sempre, sullo stalking, perché la Cassazione ha detto che se c'è un divieto per chi è stato appunto punito per il reato di stalking di frequentare la sua vittima, per dir così, ecco, non è che poi la vittima deve condurre una vita monastica, la vittima ha tutto il diritto di fare la vita che vuole e deve essere il condannato ad adeguarsi. Questa potrebbe essere una sentenza molto importante anche appunto per la prassi da seguire in questi casi. Ci sono molte altre cose, ma vedo che il tempo è tiranno. E tu devi fare una cosa adesso. Eh sì, io, come sai, devo sempre salutare gli ascoltatori, Alessandro, ma in questo caso te, con il mio abituale grido, anche oggi. Traffico! In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, insieme per l'ultima parte della nostra rassegna. Dalle pagine interne dei giornali vi segnalo su Repubblica due pagine di Annalisa Cuzzocrea e Laura Montanari sulla questione del cosiddetto utero in affitto. Ne avete sentito parlare forse anche ieri qui a Radio 24 da Oscar Giannino nel pomeriggio di ieri. C'è questo improvviso, forse un po' inatteso, contestazione alla pratica dell'utero in affitto da parte anche di molte donne, non necessariamente cattoliche, non necessariamente dalle quali non necessariamente ci si aspettava una posizione del genere, si è riacceso il dibattito. E da qui il titolo: La battaglia sui figli on demand, partito come l'ultima sfida delle femministe in difesa del corpo delle donne, l'appello contro l'utero in affitto ha scatenato un dibattito in cui ogni soluzione proposta rischia di creare discriminazioni, ora verso i gay, ora verso le donne stesse. E intanto resta sullo sfondo un'altra questione fondamentale: il destino dei bambini. Dalla Stampa vi segnalo uno specchietto molto interessante, fatto bene, a pagina 3, le idee di Marine Le Pen, 6 rapidi punti dove si riassume, lo spiega Leonardo Martinelli, corrispondente della Stampa da Parigi, cosa pensa appunto Marine Le Pen in tema di economia, dove vuole più tasse all'import, quindi più dazi, cosa che tra l'altro l'Unione Europea non prevede per la maggior parte dei paesi, sulla laicità, no ai segni religiosi per esempio sui mezzi di trasporto, sull'aborto ha detto che non lo vieterà, anche se la cugina Marion invece è per una legge molto più dura sull'aborto. Per quanto riguarda l'Unione Europea c'è tutta la questione di più sovranità ai singoli paesi, e sul matrimonio gay Marine Le Pen ha detto più volte che ci vorrebbero invece delle unioni civili e dei PACS per gli omosessuali. E infine la pena di morte, Marine Le Pen proporrà un referendum per farla applicare. Ma vi segnalo anche dalla Stampa un articolo di Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, su quello che lui definisce il prossimo shock che potrebbe toccare alla Germania. Anche in Germania infatti i partiti populisti populisti sono sempre più forti, e questo mi riporta in parte alla prima pagina del Sole 24 Ore, dove c'è un articolo di Carlo Bastasin che anticipa il congresso della CDU, il partito dei cristiano-democratici di Angela Merkel, che inizierà tra una settimana a Karlsruhe, e lì si deciderà appunto il destino di Angela Merkel, che forse non è così percepito appunto dall'esterno del paese, però in questo momento è molto in difficoltà. Bisognerà, tutto dipende, secondo l'analisi di Carlo Bastasin, dal fatto se Wolfgang Schäuble, che è ministro delle finanze e il braccio destro di Angela Merkel, deciderà di continuare a darle il suo sostegno oppure candidarsi lui stesso a capo del partito e quindi anche a successore della Merkel come cancelliere. Vi segnalo invece da Avvenire un approfondimento da Helsinki. Si parla molto, sapete, di reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle, per esempio, lo vorrebbe introdurre in Italia, pronta una legge che però non si sblocca in Parlamento. Intanto ci pensa la Finlandia. Helsinki come Babbo Natale, ci racconta Giovanni Maria Del Re. 800 euro al mese per tutti, prove tecniche di reddito di cittadinanza in Finlandia. Abbiamo parlato di Crizia, tutti i giornali ne parlano, e vi segnalo in particolare il supplemento dell'unità Radar, perché è quello che ha la quantità maggiore di fotografie. Il ricordo è di Roberta Filippini, addio Crizia, la donna che trasformò la moda, ma ripeto, con questo anche complice questo grande formato dell'unità, che sceglie tra l'altro spesso di pubblicare foto molto grandi. Ecco, o si va su internet oppure sfogliando i giornali, sono appunto, è il quotidiano l'unità, quello che ha le foto più grandi, che ci danno l'idea di questa rivoluzione che viene spiegata da tanti articoli che ha fatto questa stilista che è scomparsa domenica a 91 anni. Vi segnalo da Libero un articolo di Francesco Borgonovo, che riprende un libro che tra l'altro era segnalato due domeniche fa anche sulla domenica del Sole 24 Ore, un libro che si intitola Violenza e Islam, in cui il poeta siriano Adonis dialoga con lo psicanalista Uria Abdelwahed dell'Università Paris Diderot, e si parla appunto di quella che Adonis non ha paura a definire la violenza intrinseca all'Islam. E allora l'articolo di Francesco Borgonovo, il Dante arabo, così definisce Adonis, che in effetti è universalmente riconosciuto, è nato nel 1930 in Siria, quindi è appunto uno dei più dei maggiori poeti di lingua araba viventi, viene definito il Dante arabo, la coraggiosa denuncia del poeta. Per i musulmani la perfezione è nel Corano, per questo vogliono cancellare ogni altra civiltà. Qualsiasi evoluzione è impossibile, il pensiero e l'arte sono combattuti. A proposito di cambiamenti, abbiamo parlato prima del reddito di cittadinanza a Helsinki, abbiamo parlato dei cambiamenti climatici, sempre per scenari di medio-lungo termine. Vi segnalo sempre da Libero un articolo sulla questione demografica, che si concentra sul Giappone, che già oggi è il paese con l'età media più alta, e secondo questo studio nel 2025 un nipponico su 17 ne sarà affetto di che cosa? Malattie come la demenza senile. È naturalmente una delle conseguenze della popolazione che invecchia, sono l'insorgere, il manifestarsi di queste malattie. La situazione del Giappone, scrive il libro, è emblematica. Se l'età media si alza, si assiste alla conseguenza esplosione dei disturbi senili. Nel paese ne soffrono già 5 milioni. Il Fatto continua un po' la sua battaglia, il suo concentrarsi su come si sta muovendo il PD sul territorio, dopo aver duramente criticato l'iniziativa dei 2000 banchetti nelle città e averla bollata come un flop, l'iniziativa voluta da Renzi per appunto riportare il dibattito nelle città con questi banchetti. Ora, con un articolo di Andrea Piazza e Lorenzo Pregliasco, si concentra sulle tessere del PD. Il titolo: bassa fedeltà, poche tessere, l'orgoglio PD conta solo nelle urne, la partecipazione continua a calare, ma il partito di Renzi fa il pieno di voti e li prende ovunque. Il 10% degli elettori è di destra, quindi anche questa questione è molto dibattuta, del cosiddetto partito della nazione, cioè un partito che è difficile ormai, il Partito Democratico, definire di centrosinistra, perché appunto pesca elettori da tutte le parti, anche a destra. Un'ultimissima segnalazione, visto che tra poco uscirà anche in Italia Star Wars, il nuovo capitolo della saga, e Giovanna Grassi da Los Angeles ha intervistato il regista di questo nuovo episodio, J.J. Abrams, che è il titolo dell'articolo, è Star Wars, la forza è donna, perché il regista ha detto: più eroine rispetto al passato, sono fiero della società multietnica che ho creato. Ultima segnalazione che riesco a farvi, ancora una buona giornata da Giulia Crivelli, grazie a Peter Bescapè in regia, e noi ci sentiamo nel weekend, perché domani torna naturalmente Alessandro Milan.